si spegne da solo. C'è un interruttore a parte, penso, qualcosa del genere, per fare le prove quando si bruciano la cabina, no? Ogni volta via elettricista, accende anche di giorno e controlla se sono quali da sostituire, eccetera. Però è tutto in automatico. È un bel sistema. Luca Capichino non c'è? No, non so di no. Perché ha mandato il ragazzo bastardo la foto del guanciale, che affittendo a tutto affittare. Che ti sia che mi ha lasciato un pezzo, cane muccio questo. Lui, così purtroppo ingordo. Ti uccio, ho fatto Bologna. Lui, adesso non c'è niente dentro di io. Ma io ho bisogno di questo schermo attacco, basta, l'avevo bloccato, l'ho rimesso. Mi è tornato buono, vedi che sono bloccate le partite oggi, due contagiati, Napoli Juventus, niente partita, sembra che dobbiamo rinviare anche quella di domani. Ah, vaffanculo, non sto parlando per niente, cazzo. Ma tu pensa che oggi siamo andati a giocare fino all'aria questa storia qua che fermeranno nuovamente le partite, quindi anche perché nella prima squadra della Feroce, la prima squadra c'era stato a contatto con uno positivo, quindi adesso bisogna vedere, verificare un pochino. Tutta la mezza Serie A c'è tutti i contagiati, anche quella che hanno giocato ieri, Verona, Vicenza, no, Salernitana, Verona, lo stesso. Quindi sicuramente non so va a succedere, un casino. Oggi hanno bloccato Napoli Juventus. Un casino, no, non fa assolutamente. Il cazzo stanno combinando, cioè adesso a mille fa di entrare, ma è ancora peggio, è ancora peggio. Però i calciatori sono troppo a contatto, ma poi non stanno mai fermi, cioè se tu devi giocare, la squadra deve stare in ritiro, tutta la settimana deve stare in ritiro, tutti assieme in ritiro, non si devono muovere, grande a Barigliate giù, grande a destra, a sinistra, chi parte a trovare la mamma in Brasile, chi parte, è chiaro che non arreghi i contagi. Vabbè, non è solo quello, perché io... Stiamo dicendo che le scuole, per dire, sono sicure, ok, saranno sicure le scuole, ma tu quando vai, ci sono i tram super affollati, per dire, e anche lì, come cacchio fa, cioè metti qualche tram in più per non fare assemblamenti, è tutto un discorso un po' particolare, no? È che, quindi, purtroppo, ho preso sotto che uno deve cercare di tutelarsi, insomma, cercare di riservarsi un pochino di più per non avere questo assemblamento, questo contagio, tutte cose. Ti hanno fatto vedere un coso, come si dice, alla TV, al canale 5, delle scuole, del liceo scientifico di... non mi ricordo che provincia era, praticamente in classe tutti distanziati con tutte le precauzioni, professori, tutti con la mascherina eccetera, hanno fatto vedere quando sono usciti dalla scuola, no? Adesso vi facciamo vedere esattamente cosa succede quando finiscono le lezioni. Noi purtroppo tuteliamo l'ingresso della scuola, sono ragazzi grandi, anche maggiorenni ce ne sono, ok? Mi pare che era la quinta liceo scientifico, lì non mi ricordo loro. Cazzo, come sono usciti da scuola, proprio all'uscita del cancello Sinani Bugaddo, tutti la mascherina, tutti abbracciati, tutti baciandosi, tutti facendo un assemblamento allucinante. C'era il direttore didattico, ecco, guardate, ecco, questo è quello che succede fuori della scuola. Noi che cosa ci possiamo fare? Allora ha deciso il sindaco di quella città, che è una città abbastanza grande, in provincia di Napoli, ha deciso che all'uscita della scuola ci sarà la municipale, o i carabinieri, o la polizia, e praticamente cercherà di scortare tutta questa massa di gente sino a dove devono andare. Ma dimmi tu, c'è, cosa sta succedendo? È un casino, Adesso vediamo un po' cosa succederà, perché nell'ambito nostro calcistico hanno già dato una direttiva che dal 1 al 7 ottobre bisogna immediatamente pagare l'iscrizione. Aspetta un attimino, amico mio, che fra un po' bloccano tutto e se di me le tengo io, non te le do a te. È inutile che io pago quando poi non mi faccio pagare il ragazzo. È che ho già pagato 180 euro di scarpe, 160 euro di kit, altri 75 euro di guanti, e non ti elenco tutte le altre cose che non fanno parte del, cioè che fanno parte del portiere, quindi. Il portiere deve avere tutte le sue cose, ginocchiere, i cosi per i gomiti, perché chiaramente è un ragazzo giovane, deve stare molto attento. Soldi. Un po' di là, lo sport anche quello è una cosa che se fai la devi fare professionalmente, quindi ci vuole tutta l'attrezzatura. Ma a parte quello, parliamo dei pullman, parliamo dei treni. Dice sì, noi dobbiamo andare a scuola, perfetto. Guardate come noi partiamo la mattina per andare a scuola, ok? Un casino, tutti attaccati, spingendosi per prendere il posto, sai come facevamo noi quando eravamo ragazzini, no? Per prendere il posto, per me. Adesso molti, è successo che molti che prendono il pullman in Sardegna, e poi c'è Cagliari, molti che prendono il pullman, praticamente, il pullman non sarà più a 52 posti, ma sarà dimezzato alla metà. E gli altri con cosa cazzo viaggiano? I genitori stanno protestando, dice, cioè noi la mattina ci dobbiamo alzare alle 6 del mattino per andare a accompagnare i nostri figli a scuola a 30, 40, 50 km da dove abitiamo, perché la regione non mette a disposizione, anziché un pullman, ne mette due, tre, in modo che dividano le persone che devono viaggiare, capite? Io sinceramente non lo so. Poi il fatto è che se fermeranno tutto sarà un casino per via della sopravvivenza, perché effettivamente a me mi avevano pagato, ma con 260 euro che mi hanno dato per dire perché ero fermo, non credo che una persona ci campi bene, lascia perdere se uno affondi o non affondi. Immaginate che l'aria li stanno accreditando adesso i soldi della cassa integrazione, loro sono rimasti due mesi chiusi il bar, capito? Li stanno accreditando, gli è arrivato un messaggio all'Ipice che dall'1 al 12 ci sarà l'accreditamento della cassa integrazione, quella che non li hanno dato quando dovevano valere, quindi a giugno, siamo a ottobre, barometti, capito? Li stanno dando adesso, immaginate tu, no? Meno male che già aveva qualcosa lei, qualcosa avevamo noi, e si tira a campare. E se uno non c'ha manco una lira, come cazzo fa? Quello che sto dicendo, non è che... Non so, mi sta chiamando Anna. Ehi, Luca! Così è. La gente di Gipirada ancora da giugno a ottobre, tu immaginati ti, se dovessero nuovamente chiudere e dobbiamo andare nuovamente come eravamo prima tutti a casa, perché uno si impicca se non è di là a campare. Non è più vergogna, ormai è un'abitudine. Perché tu ti vergognare? Tu ti vergogni. Non cosa mangi? Ma per scherzare. Allucinante veramente. Questa cosa ha distrutto l'Italia e il mondo, non solo l'Italia. L'Italia, l'Europa in generale e il mondo al completo, perché è una cosa che secondo me non si fermerà mai più. È un casotto. E tu domani lavori? Sì. Noi, sino a che ce la fa la... Il piccolo Moss, mantenerci, ci mantiene, non è che, anche lui dice, io purtroppo non è che posso stare, se lavoro non va avanti, anche lui sta pagando a noi, ma insomma, deve anche incassare, capito? Il problema è che se non ci sono fondi, è un casotto. Ma quali sono i fondi della comunità europea oppure regionali, comunali? Ma fondi suoi. Ah, sì, vabbè, ma l'appalto cos'è? Quello che state facendo cos'è? Regionale, comunale? Ancora niente perché gli avevo dato l'ok, già firmato tutto quanto, però stiamo temporeggiando, stiamo aspettando, ancora però non ho... Niente, dobbiamo partire a Bosa, dobbiamo partire lì a Valleluria, solo che... se non si decidono, cioè se non si danno via non possiamo fare niente, quindi stiamo temporeggiando lì a, in Caccanone e stiamo approfittando a mettere a posto i miti. Ehi, ehi, ehi, come mio cognato ti si accorge. C'è l'ok per un lavoro grosso alla sfera di Alghero, ma no, c'è tutto firmato, tutto portato, tutto pronto, però è tutto fermo proprio a causa di questo cacchio di coronavirus. È un casino. Io spero che non blocchino nuovamente i bar, perché altrimenti veramente un investimento che ha fatto l'aria è un casino, cioè non si va avanti. Stavo dicendo che forse li facevano chiudere sino a 10:30, credo, una cosa del genere. Dopo le decine dovevano chiudere perché sennò si faceva troppo assemblamento, ma queste sono sempre dicerie, poi ognuno dice la sua, ognuno aggiunge la sua, non si sa. Boh. Vabbè dai, che c'è il bimbo che vuole il latte, devo preparargli tutte cose, quindi mi devo spostare dalla radio. Va bene dai, ne approfitto ora ormai. Tanto uno ha mangiato il lardo e già con la burla del moccio che ogni tanto gli si scoppia nel divano. L'altro che ha abbandonato senza neanche salutare, ne approfittiamo a dare il nostro contributo. Ci sentiamo, ciao Clara, anche agli eventuali ascoltoni. Ciao. Buonanotte, saluto a tutti. Eia. No, vabbè, l'aria per quello non ha problemi, perché anche loro chiudono presto alle 10 durante la settimana e poi il sabato si trattengono un po' di più. Va bene, dai, ciao, buonanotte, a domani se coincide, fatela buona, ciao. Ciao a tutti.